292. Arnioni per colazione. Arnione di vitella di latte, di castrato, di maiale e simili si prestano bene per una colazione cucinati nella seguente maniera. Tenete in pronto un battutino tritato fine, composto di prezzemolo, mezzo spicchio d'aglio, il sugo di mezzo limone e 5 o 6 fette di midolla di pane asciugato al fuoco. Aprite gli arnioni per digrassarli e tagliateli a fettine sottili per traverso. Dato che siano in tutto del peso di 400 o 500 grammi, gettateli in padella con grammi 50-60 di burro a fuoco ardente. Muoveteli spesso e appena cominciano a soffriggere, gettateci il battutino. Conditeli con sale e pepe, sempre muovendoli col mestolo. Versateci il succo del limone e per ultimo un ramaiuolo di brodo. L'operazione deve farsi in 5 minuti circa e prima di mandarli in tavola versateli sulle fette del pane. Basteranno per 4 persone.